volte le parole dette, sorelenose e maledette, e sfoghi tutta la tua rabbia, sei come un falco chiuso in gabbia, il tuo rifugio è la tua stanza, e poi rifiuti e neghi l'evidenza di un amore malato, di un amore ferito fra di noi. Due fari spenti nella notte, e con l'orgoglio io faccio a botte, ti vedo lì fra le sue braccia, le stesse smorfie, la stessa faccia, e nel silenzio muoio dentro, ti sto perdendo e sale il mio tormento di un amore tradito, di un amore sconfitto. Ci siamo persi tante volte dentro a delle stupide bugie, niente. Siamo amati, odiati per assurde gelosie, fra mille dubbi ma senza perché. Come eravamo felici, come si stava bene, sempre insieme. E i nostri sogni in vano, mano nella mano, ma tu adesso con chi sei, dove sei? Sto provando a dare un senso, ma quale senso se poi ci penso che non ti ho dato mai abbastanza, e invece tu mi hai dato la tua esistenza. Ma adesso basta, vado avanti, ma che fatica andare a passi stanchi di un amore sprecato, di un amore sfinito. Ci siamo perdonati, emozionati dentro un letto caldo, io e te. Ho scritto tante volte dentro a mille rose rosse, sei la mia vita e fai parte di me. Come eravamo felici e come si stava bene, sempre insieme. E i nostri sogni in vano, mano nella mano, ma tu adesso non ci sei. Ci siamo persi tante volte dentro delle stupide bugie, io e te. Ci siamo amati, odiati per assurde gelosie, fra mille dubbi ma senza perché. Come eravamo felici e come si stava bene, sempre insieme. E i nostri sogni in mano, mano nella mano, ma tu adesso non ci sei. A volte le parole dette sono velenose e maledette.